7. Ascolta e controlla. 1. Ti occorre altro? Vi occorre altro? 2. Mi serve tempo. Ci serve tempo. 3. Vi pare giusto? Ti pare giusto? 4. Ci interessa molto sapere se tutto va bene. Mi interessa molto sapere se tutto va bene. 5. Gli basta poco per essere contento. Gli basta poco per essere contenti. 6. Le è dispiaciuto partire. Gli è dispiaciuto partire. 7. Ci è sembrata la soluzione più comoda. Mi è sembrata la soluzione più comoda. 8. Lei non mi risponde. Lei non ci risponde.